www.radio3pod.rai.it. Vuoi essere anche tu protagonista in TV? Invia entro l'8 dicembre un tuo filmato sul sito evospot.it. G3 Ferrari selezionerà i filmati più originali per la nuova campagna TV dell'etilometro tascabile Evo. Regolamento su evospot.it. Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Manuela Mandracchia legge Il barone rampante di Italo Calvino. Quel brutto inverno non era stato senza conseguenze per la salute di Cosimo. Stava lì a penzolare rannicchiato nel suo otre, come un baco nel bozzolo, con la goccia al naso, l'aria sorda e gonfia. Ci fu l'allarme per i lupi e la gente passando là sotto l'apostrofava. «Ah, barone, una volta saresti stato tu a farci la guardia dei tuoi alberi e adesso siamo noi che facciamo la guardia a te». Lui restava con gli occhi semichiusi, come se non capisse o non gli importasse niente. Invece a un tratto alzò il capo, tirò su dal naso e disse, rauco, «Le pecore! Per cacciare i lupi! Vanno messe delle pecore sugli alberi, legate!» La gente già s'affollava lì sotto per sentire che pazzie tirava fuori e canzonarlo. Invece lui, sbuffando e scatarrando, s'alzò dal sacco, disse, «Vi faccio vedere dove!» e s'avviò per i rami. Su alcuni noci o querce tra il bosco e il coltivato, in posizioni scelte con gran cura, Cosimo volle che portassero delle pecore o degli agnelli e li legò lui stesso ai rami, vivi, belanti, ma in modo che non potessero cascar giù. Su ognuno di questi alberi nascose poi un fucile caricato a palla. Lui pure si vestì da pecora, cappuccio, giubba, brache, tutto di ricciuto vello ovino, e si mise ad aspettare la notte al sereno su quegli alberi. Tutti credevano che fosse la più grossa delle sue pazzie. Invece quella notte calarono i lupi. Sentendo l'odor della pecora, udendone il belato e poi vedendola lassù, tutto il branco si fermava a piè dell'albero e ululavano, con affamate fauci aperte all'aria e puntavano le zampe contro il tronco. Ecco che allora balzelloni sui rami s'avvicinava Cosimo e i lupi, vedendo quella forma tra la pecora e l'uomo che saltava lassù come un uccello, restavano allocchiti a bocca aperta, finché, bum bum, si pigliavano due pallottole giuste in gola. Due, perché un fucile Cosimo se lo portava con sé e lo ricaricava poi ogni volta, e un altro era lì pronto con la pallottola in canna su ogni albero. Dunque ogni volta erano due lupi che restavano stesi sulla terra gelata. Ne sterminò così un gran numero, e a ogni sparo i branchi volgevano in rotta disorientati, e i cacciatori, accorrendo dove sentivano gli urli e gli spari, facevano il resto. Di questa caccia ai lupi, in seguito, Cosimo raccontava episodi in molte versioni, e non so dire quale fosse la giusta. Per esempio, la battaglia procedeva per il meglio quando, muovendo verso l'albero dell'ultima pecora, ci trovai tre lupi che erano riusciti ad arrampicarsi sui rami e la stavano finendo. Mezzo cieco e stordito dal raffreddore com'ero, arrivai quasi sul muso dei lupi senza accorgermene. I lupi, al vedere quest'altra pecora che camminava in piedi per i rami, le si voltarono contro spalancando le fauci ancora rosse di sangue. Io avevo il fucile scarico, perché dopo tanta sparatoria ero rimasto senza polvere. E il fucile preparato su quell'albero non potevo raggiungerlo, perché c'erano i lupi. Ero su di un ramo secondario un po' tenero, ma sopra di me avevo a portata di braccia un ramo più robusto. Cominciai a camminare a ritroso sul mio ramo, lentamente allontanandomi dal tronco. Un lupo lentamente mi seguì. Ma io con le mani mi tenevo appeso al ramo di sopra e i piedi fingevo di muoverli su quel ramo tenero. In realtà mi ci tenevo sospeso sopra. Il lupo ingannato si fidò ad avanzare e il ramo gli si piegò sotto mentre io d'un balzo mi sollevavo sul ramo di sopra. Il lupo cadde con un appena accennato abbaio da cane e per terra si spezzò le ossa restandoci stecchito. E gli altri due lupi? Gli altri due mi stavano studiando, immobili. Allora tutto d'un colpo mi tolsi giubba e cappuccio di pel di pecora e glieli gettai. Uno dei due lupi, a vedersi volare addosso quest'ombra bianca d'agnello, cercò d'afferrarla coi denti, ma essendosi preparato a reggere un gran peso e quella essendo invece una vuota spoglia, si trovò sbilanciato e perse l'equilibrio, finendo pure lui per spezzarsi zampe e collo al suolo. E ne resta ancora uno. Ne resta ancora uno, ma essendomi improvvisamente alleggerito negli abiti, buttando via la giubba, mi venne uno di quegli starnuti da far tremare il cielo. Il lupo, a quel prorompere così improvviso e nuovo, ebbe un tale soprassalto che cadde dalla pianta rompendosi il collo come gli altri. Così mio fratello raccontava la sua notte di battaglia. Quello che è certo è che il freddo che aveva preso, già malaticcio com'era, quasi gli fu fatale. Stette alcuni giorni tra la morte e la vita e fu curato a spese del comune d'Ombrosa, in segno di riconoscenza. Steso in una maca, era circondato da un sali e scendi di dottori sulle scale a pioli. I migliori medici del circondario furono chiamati a consulto e chi gli faceva serviziali, chi salassi, chi senapismi, chi fomenti. Nessuno parlava più del barone di Rondò come d'un matto, ma tutti come d'uno dei più grandi ingegni e fenomeni del secolo. Questo finché restò ammalato. Quando guarì, si tornò a dirlo chi savio come prima, chi matto come sempre. Fatto sta che non fece più tante stranezze. Continuò a stampare un ebdomadario, intitolato non più Il monitore dei bipedi, ma Il vertebrato ragionevole. Io non so se a quell'epoca già fosse stata fondata a Ombrosa una loggia di franchi muratori. Venne iniziata la massoneria molto più tardi, dopo la prima campagna napoleonica, insieme con gran parte della borghesia abbiente e della piccola nobiltà dei nostri posti. E non so dire perciò quali siano stati i primi rapporti di mio fratello con la loggia. Al proposito, citerò un episodio occorso pressappoco ai tempi di cui sto ora narrando e che varie testimonianze confermerebbero per vero. Arrivarono un giorno a Ombrosa due spagnoli, viaggiatori di passaggio. Si recarono a casa di certo Bartolomeo Cavagna, pasticcere, noto come frammassone. Pare si qualificassero per confratelli della loggia di Madrid, talché egli li condusse la sera ad assistere a una seduta della massoneria ombrosotta, che allora si riuniva a lume di torce e ceri in una radura in mezzo al bosco. Di tutto questo sa notizia solo da voci e supposizioni. Quel che è certo è che l'indomani due spagnoli, appena usciti dalla loro locanda, furono seguiti da Cosimo di Rondò, che non visto li sorvegliava dall'alto degli alberi. I due viaggiatori entrarono nel cortile d'un'osteria fuori porta. Cosimo s'appostò sopra un glicine. A un tavolo c'era un avventore che attendeva i due. Non se ne vedeva il viso, adombrato da un cappello nero a larghe tese. Quelle tre teste, anzi quei tre cappelli, conversero sul quadrato bianco della tovaglia e dopo aver un po' confabulato, le mani dello sconosciuto presero a scrivere su una stretta carta qualcosa che gli altri due gli dettavano e che dall'ordine in cui metteva le parole una sotto l'altra si sarebbe detto un elenco di nomi. «Buongiorno a questi signori», disse Cosimo. I tre cappelli si sollevarono, lasciando apparire tre visi, con gli occhi sgranati verso l'uomo sul glicine. Ma uno dei tre, quello dalle larghe tese, si riabbassò subito, tanto da toccare il tavolo con la punta del naso. Mio fratello aveva fatto in tempo a intravedere una fisionomia che non gli pareva sconosciuta. «Buenos dias a usted», fecero i due. «Ma è un'usanza del luogo presentarsi ai forestieri calando dal cielo come un piccione? Spero vogliate scendere subito a spiegarcelo». «Chi sta in alto è ben in vista da ogni parte», disse il barone, «mentre c'è chi striscia per nascondere il viso». «Sappiate che nessuno di noi è tenuto a mostrare il viso a voi, signor, più di quanto non è tenuto a mostrare il suo di dietro. So che per certe sorta di persone è un punto d'onore tenere la faccia in ombra». «Quali di grazia?» «Le spie, a dirne una». I due compari trasalirono. Quello chinato restò immobile, ma per la prima volta s'udì la sua voce. «O a dirne un'altra, i membri di società segrete», scandì lentamente. Questa battuta poteva interpretarsi in vari modi. Cosimo lo pensò e poi lo disse forte. «Questa battuta, signore, può interpretarsi in vari modi. Voi dite membri di società segrete, insinuando che lo sia io, o insinuando che lo siate voi, o che lo siamo entrambi, o che non lo siamo né voi né io, ma altri, o perché comunque vada è una battuta che può servire a vedere cosa dico io dopo». Come? Disse disorientato l'uomo col cappello a larghe tese. E in quel disorientamento, scordandosi che doveva tenere il capochino, s'alzò fino a guardare Cosimo negli occhi. Cosimo lo riconobbe. Era Don Sulpicio, il gesuita suo nemico dei tempi di Oliva Bassa. «Ah, non m'ero ingannato! Giù la maschera, reverendo padre!» esclamò il barone. «Voi, ne ero certo!» fece lo spagnolo. E si tolse il cappello, si inchinò, scoprendo la chierica. «Don Sulpicio de Guadalete, superior della Compagnia de Jesús. Cosimo di Rondò, muratore franco ed accettato». Anche gli altri due spagnoli si presentarono con un breve inchino. «Don Calisto, Don Fulgenzio». «Gesuiti anche loro signori?» «Nosotros también». «Ma il vostro ordine non è stato sciolto di recente per ordine del Papa?» «Non per dar tregua ai libertini e agli eretici del vostro stampo», disse Don Sulpicio, snudando la spada. Erano gesuiti spagnoli che, dopo lo scioglimento dell'ordine, s'erano dati alla campagna, cercando di formare una milizia armata in tutte le contrade per combattere le idee nuove e il teismo. Anche Cosimo aveva sfoderato la spada. Parecchia gente aveva fatto ressa intorno. «Favorite scendere, se volete battervi caballerosamente», disse lo spagnolo. Più in là era un bosco di noci. Era il tempo dell'abbacchiatura e i contadini avevano appeso dei lenzuoli da un albero all'altro per raccogliere le noci che bacchiavano. Cosimo corse su un noce, saltò nel lenzuolo e lì si tenne ritto, frenando i piedi che gli scivolavano sulla tela in quella specie di grande amaca. «Salite voi di due spanne, Don Sulpicio, che io sono disceso più di quanto non sia solito», e snudò anche lui la spada. Lo spagnolo saltò lui pure sul lenzuolo teso. Era difficile tenersi ritti, perché il lenzuolo tendeva a chiudersi a sacco intorno alle loro persone, ma i due contendenti erano tanto accaniti che riuscirono a incrociare i ferri. «Alla maggior gloria di Dio, a gloria del grande architetto dell'universo!» e si menavano fendenti. «Prima che vi pianti questa lama nel piloro», disse Cosimo, «datemi notizia della signorita Ursula. È morta in un convento!» Cosimo fu turbato dalla notizia, che però io penso fosse inventata bella posta, e l'ex gesuita ne approfittò per un colpo mancino. Con un affondo raggiunse una delle cocche che, legate ai rami dei noci, sostenevano il lenzuolo dalla parte di Cosimo e la tagliò di netto. Cosimo sarebbe certo caduto se non fosse stato lesto a gettarsi sul lenzuolo dalla parte di Don Sulpicio e ad aggrapparsi a un lembo. Nel balzo, la sua spada travolse la guardia dello spagnolo e l'infilzò nel ventre. Don Sulpicio s'abbandonò. Scivolò giù per il lenzuolo, inclinato dalla parte dove aveva tagliato la cocca, e cadde a terra. Cosimo s'arrampicò sul noce. Gli altri due ex gesuiti sollevarono il corpo del compagno ferito o morto, non si seppe mai bene. Scapparono e non si fecero mai più rivedere. La gente s'affollò intorno al lenzuolo insanguinato. Da quel giorno mio fratello ebbe fama generale di frammassone. Il segreto della società non mi permise di saperne di più. Quando io entrai a farne parte, come ho detto, intesi parlare di Cosimo come d'un anziano fratello, i cui rapporti con la loggia non erano ben chiari, e chi lo definiva dormiente, chi un eretico passato ad altro rito, chi addirittura un apostata, ma sempre con gran rispetto per la sua attività passata. Non escludo neppure che potesse essere stato lui quel leggendario maestro picchio muratore cui s'attribuiva la fondazione della loggia all'Oriente d'Ombrosa, e che d'altronde la descrizione dei primi riti che vi si sarebbero tenuti risentirebbero dell'influenza del barone. Basti dire che i neofiti venivano bendati, fatti salire in cima a un albero e calati appesi a corde. È certo che da noi le prime riunioni dei frammassoni si svolgevano la notte in mezzo ai boschi. La presenza di Cosimo quindi sarebbe più che giustificata, tanto nel caso che sia stato lui a ricevere dai suoi corrispondenti forestieri gli opuscoli con le costituzioni massoniche e a fondare qui la loggia, quanto nel caso che sia stato qualcun altro, probabilmente dopo essere stato iniziato in Francia o in Inghilterra, a introdurre i riti anche ad Ombrosa. Forse è possibile che la massoneria esistesse già da tempo, all'insaputa di Cosimo, ed egli casualmente una notte, muovendosi per gli alberi del bosco, scoprisse in una radura una riunione d'uomini con strani paramenti ernesi, alla luce di candelabri, si soffermasse di là su ad ascoltare e poi intervenisse gettando lo scompiglio con una qualche uscita sconcertante, come per esempio «Se alzi un muro, pensa a ciò che resta fuori». Frase che gli sentii spesso ripetere. O un'altra delle sue. E i massoni, riconosciuta la sua alta dottrina, lo facessero entrare nella loggia con cariche speciali e apportandovi un gran numero di nuovi riti e simboli. Sta il fatto che per tutto il tempo che mio fratello ci ebbe a che fare, la massoneria all'aperto, come la chiamerò per distinguerla da quella che si riunirà poi in un edificio chiuso, ebbe un rituale molto più ricco, in cui entravano civette, telescopi, pigne, pompe idrauliche, funghi, diavolini di cartesio, ragnatele, tavole pitagoriche. Vi era anche un certo sfoggio di teschi, ma non solo umani, bensì anche crani di mucche, lupi ed aquile. Siffatti oggetti altri ancora, tra cui le cazzuole, le squadre e i compassi della normale liturgia massonica, venivano trovati a quel tempo appesi ai rami in bizzarri accostamenti e attribuiti ancora alla pazzia del barone. Solo poche persone lasciavano capire che adesso quei rebus avevano un significato più serio. Ma d'altronde non si è mai potuto tracciare una separazione netta tra i segnali di prima e quelli di dopo, ed escludere che sin da principio fossero segni esoterici di una qualche società segreta. Perché Cosimo, già molto tempo prima che alla massoneria, era affiliato a varie associazioni o confraternite di mestiere, come quella di San Crispino o dei calzolai, o quella dei virtuosi bottai, dei giusti armaioli o dei cappellai coscienziosi. Facendosi da sé quasi tutte le cose che gli servivano, conosceva le arti più varie e poteva vantarsi membro di molte corporazioni che da parte loro erano ben contenti ad avere tra loro un membro di nobile famiglia, di bizzarro ingegno e di provato disinteresse. Come questa passione che Cosimo sempre dimostrò per la vita associata si conciliasse con la sua perpetua fuga dal consorzio civile non ho mai ben compreso. E ciò resta una delle non minori singolarità del suo carattere. Si direbbe che egli, più era deciso a star rintanato tra i suoi rami, più sentiva il bisogno di creare nuovi rapporti col genere umano. Ma per quanto ogni tanto si buttasse anima e corpo a organizzare un nuovo sodalizio, stabilendone meticolosamente gli statuti, le finalità, la scelta degli uomini più adatti per ogni carica, mai i suoi compagni sapevano fino a che punto potessero contare su di lui, quando e dove potevano incontrarlo e quando invece sarebbe stato improvvisamente ripreso dalla sua natura da uccello e non si sarebbe lasciato più acchiappare. Forse, se proprio si vuole ricondurre a un unico impulso questi atteggiamenti contraddittori, bisogna pensare che egli fosse ugualmente nemico d'ogni tipo di convivenza umana vigente ai suoi tempi e perciò tutti li fuggisse e s'affannasse ostinatamente a sperimentarne di nuovi, ma nessuno di essi gli pareva giusto e diverso dagli altri abbastanza. Da ciò le sue continue parentesi di selvatichezza assoluta. Era un'idea di società universale che aveva in mente. E tutte le volte che s'adoperò per associar persone, sia per fini ben precisi come la guardia contro gli incendi o la difesa dei lupi, sia in confraternite di mestiere come i perfetti arrotini o gli illuminati conciatori di pelli, siccome riusciva sempre a farli radunare nel bosco, nottetempo, intorno a un albero dal quale egli predicava, ne veniva sempre un'aria di congiura, di setta, d'eresia. E in quell'aria anche i discorsi passavano facilmente dal particolare al generale e dalle semplici regole d'un mestiere manuale si passava come niente al progetto di instaurare una repubblica mondiale di uguali, di liberi e di giusti. Nella massoneria Cosimo, dunque, non faceva che ripetere quel che già aveva fatto nelle altre società segrete o semisegrete cui aveva partecipato. E quando un certo Lord Liverpool, mandato dalla Gran Loggia di Londra a visitare i confratelli del continente, capitò a Ombrosa mentre era maestro mio fratello, restò così scandalizzato dalla sua poca ortodossia che scrisse a Londra questa ad Ombrosa dovrà essere una nuova massoneria di rito scozzese pagata dagli Stuart per fare propaganda contro il trono degli Hannover per la restaurazione giacobita. Dopo di ciò avvenne il fatto che ho raccontato dei due viaggiatori spagnoli che si presentarono per massoni a Bartolomeo Cavagna. Invitati a una riunione della loggia, essi trovarono tutto normalissimo, anzi dissero che era proprio tal quale all'Oriente di Madrid. Fu questo a insospettire Cosimo, che sapeva bene quanta parte di quel rituale fosse di sua invenzione. Fu per questo che si mise sulle tracce degli spioni e li smascherò e trionfò sul suo vecchio nemico Don Sulpicio. Comunque io sono dell'idea che questi cambiamenti di liturgia fossero un bisogno suo personale, perché di tutti i mestieri avrebbe potuto prendere i simboli a ragion veduta, tranne che quelli del muratore, lui che di casa in muratura non ne aveva mai volute né costruire né abitare. Insomma, c'erano anche da noi tutte le cause della rivoluzione francese, solo che non eravamo in Francia e la rivoluzione non ci fu. Viviamo in un paese dove si verificano sempre le cause e non gli effetti. A Ombrosa però corsero ugualmente tempi grossi. Contro gli austro-sardi, l'esercito repubblicano muoveva guerra lì a due passi. Massena con l'Ardente, la Harpe sul Nervia, Muret lungo la Cornice, con Napoleone che allora era soltanto generale d'artiglieria, cosicché quei rombi che si udivano giungere a Ombrosa sul vento, or sì or no, era proprio lui che li faceva. A settembre ci si preparava per la vendemmia e pareva ci si preparasse per qualcosa di segreto e di terribile. I conciliaboli di porta in porta. L'uva è matura. È matura, eh già. Altro che matura, si va a cogliere, si va a pigiare. Ci siamo tutti. Tu dove sarai? Alla vigna di là del ponte. E tu? E tu? Dal Conte Pigna. Io alla vigna del mulino. Hai visto quanti sbirri? Paiono merli calati a beccare i grappoli, ma quest'anno non beccano. Se i merli sono tanti, qui siamo tutti cacciatori. C'è chi invece non vuol farsi vedere, c'è chi scappa. Come mai quest'anno la vendemmia non piace più a tanta gente? Da noi volevano rimandarla, ma ormai l'uva è matura, è matura. L'indomani invece la vendemmia cominciò silenziosa. Le vigne erano affollate di gente a catena lungo i filari, ma non nasceva nessun canto. Qualche sparso richiamo, grida. Ci siete anche voi? È matura! un muovere di squadre, un che di cupo, forse anche del cielo, che era non del tutto coperto, ma un po' greve. E se una voce attaccava una canzone, rimaneva subito a mezzo, non raccolta dal coro. I mulattieri portavano le corbe piene d'uva ai tini. Prima, di solito, si facevano le parti per i nobili, il vescovo e il governo. Quest'anno no. Pareva che se ne dimenticassero. Gli esattori, venuti per riscuotere le decime, erano nervosi. Non sapevano che pesci pigliare. Più passava il tempo, più non succedeva niente, più si sentiva che doveva succedere qualcosa, più gli sbirri capivano che bisognava muoversi, ma meno capivano che fare. Cosimo, coi suoi passi da gatto, aveva preso a camminare per i pergolati. Con una forbice in mano tagliava un grappolo qua e un grappolo là, senza ordine, porgendolo poi ai vendemmiatori e alle vendemmiatrici là di sotto, a ciascuno dicendo qualcosa a bassa voce. Il capo degli sbirri non ne poteva più, disse: «Ebbene? E allora così, vediamo un po' ste decime!» L'aveva appena detto e s'era già pentito. Per le vigne risuonò un cupo suono tra il boato e il sibilo. Era un vendemmiatore che soffiava in una conchiglia di quelle a buccina e spargeva un suono d'allarme nelle valli. Da ogni poggio risposero suoni uguali. I vignaiuoli levarono le conchiglie come trombe e anche Cosimo dall'alto d'una pergola. Per i filari si propagò un canto, dapprima rotto, discordante, che non si capiva che cos'era. Poi le voci trovarono un'intesa. Si intonarono, presero l'aire e cantarono come se corressero di volata, e gli uomini e le donne fermi e seminascosti lungo i filari, e i pali, le viti, i grappoli, tutto pareva correre, e l'uva vendemmiarsi da sé, gettarsi dentro i tini e pigiarsi, e l'aria, le nuvole, il sole diventare tutto mosto, e già si cominciava a capire quel canto, prima le note della musica e poi qualcuna delle parole che dicevano «Sairà, sairà, sairà», e i giovani pestavano l'uva coi piedi scalzi e rossi, «Sairà», e le ragazze cacciavano le forbici appuntite come pugnali nel verde fitto, ferendo le contorte attaccature dei grappoli, «Sairà!» E i moscerini a nuvoli invadevano l'aria sopra i mucchi di graspi pronti per il torchio, «Sairà!» E fu allora che gli sbirri persero il controllo e «Alto là! Silenzio! Basta col bordello! Chi canta lo si spara!» E cominciarono a scaricare fucili in aria. Rispose loro un tuono di fucileria che parevano reggimenti schierati a battaglia sulle colline. Tutti gli schioppi da caccia d'ombrosa esplodevano e Cosimo, in cima a un alto fico, suonava la carica nella conchiglia a tromba. Per tutte le vigne ci fu un muoversi di gente. Non si capiva più quel che era vendemmia e quel che era mischia. Uomini, uva, donne, tralci, roncole, pampini, scarasse, fucili, corbe, cavalli, fil di ferro, pugni, calci di mulo, stinchi, mammelle e tutto cantando «Sairà!». «Eccovi le decime!» Finì che gli sbirri e gli esattori furono cacciati a capofitto nei tini pieni d'uva, con le gambe che restavano fuori e scalciavano. Se ne tornarono senza avere esatto niente, lordi da capo a piedi di succo d'uva, d'acini pestati, di vinacce, di sanza, di graspi che restavano impigliati ai fucili, alle giberne, ai baffi. La vendemmia proseguì come una festa, tutti essendo convinti d'aver abolito i privilegi feudali. Intanto noi altri nobili e nobilotti c'eravamo barricati nei palazzi, armati, pronti a vender cara la pelle. Io veramente mi limitai a non mettere il naso fuori dell'uscio, soprattutto per non farmi dire dagli altri nobili che ero d'accordo con quell'anticristo di mio fratello, reputato il peggior istigatore giacobino e clubista di tutta la zona. Ma per quel giorno, cacciati gli esattori e la truppa, non fu torto un capello a nessuno. Erano tutti in grande affare a preparare feste. Misero su anche l'albero della libertà per seguire la moda francese, solo che non sapevano bene come erano fatti, e poi da noi d'alberi ce n'erano talmente tanti che non valeva la pena di metterne di finti. Così addobbarono un albero vero, un olmo, con fiori, grappoli d'uva, festoni, scritte «Vive la grande nation!». In cima c'era mio fratello, con la coccarda tricolore sul berretto di pel di gatto, e teneva una conferenza su Rousseau e Voltaire, di cui non si udiva neanche una parola, perché tutto il popolo là sotto faceva girotondo cantando «Sairà!». L'allegria durò poco. Vennero truppe in gran forza, genovesi, per esigere le decime e garantire la neutralità del territorio, e austrosarde perché s'era sparsa già la voce che i giacobini d'Ombrosa volevano proclamare l'annessione alla grande nazione universale, cioè alla Repubblica Francese. I rivoltosi cercarono di resistere, costruirono qualche barricata, chiusero le porte della città. Ma sì, ci voleva altro. Le truppe entrarono in città da tutti i lati, misero posti di blocco in ogni strada di campagna e quelli che avevano nome da agitatori furono imprigionati, tranne Cosimo, che chi lo pigliava era bravo, e altri pochi con lui. Il processo ai rivoluzionari fu messo su alle spicce, ma gli imputati riuscirono a dimostrare che non c'entravano niente e che i veri capi erano proprio quelli che se l'erano svignata. Così furono tutti liberati. Tanto, con le truppe che si fermavano di stanza ombrosa, non c'era da temere altri subbugli. Si fermò anche un presidio d'ostrosardi, per garantirsi da possibili infiltrazioni del nemico, e al comando d'esso c'era nostro cognato d'Estomac, il marito di Battista, emigrato dalla Francia al seguito del conte di Provenza. Mi ritrovai dunque tra i piedi mia sorella Battista, con che piacere vi lascio immaginare. Mi si installò in casa col marito ufficiale, i cavalli, le truppe d'ordinanza. Lei passava le serate raccontandoci le ultime esecuzioni capitali di Parigi. Anzi, aveva un modellino di ghigliottina con una vera lama e per spiegare la fine di tutti i suoi amici e parenti acquistati, decapitava lucertole, orbettini, lombrichi e anche sorci. Così passavamo le serate. Io invidiavo Cosimo, che viveva i suoi giorni e le sue notti alla macchia, nascosto in chissà quali boschi. Manuela Mandracchia ha letto Il barone rampante di Italo Calvino, realizzazione tecnica di Carlo Cursi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini, ilterzoanello@rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.